lasciate perdere, in studio ci sono tutti allenatori bravi, professori, scienziati, vado via. Questa è una grande crisi, siamo in piena crisi, in grande crisi, quindi bisogna fare grandissima attenzione, sarà molto difficile rivincere lo scudetto in Italia. Questi mesi cosa hai fatto? Viaggiando molto e fatto un film. Tutti convocati di Carlo Genta. Buongiorno, buon lunedì, buona settimana a tutti. Franco Piantanini, autore di questo programma, Fabio Cantadore in regia. Devo dire che questo weekend non abbiamo avuto modo di romperci le scatole. C'è stata anche la neve, una temperatura da freezer a metà marzo che ci ha inchiodati tutti in casa a guardare sport dall'alba alla notte. Prime cartoline dall'Australia incoraggianti da parte della Ferrari. Una Sanremo, corsa la domenica ad altri tempi, vinta da Čolek, tedesco, che chissà quante volte nella sua colonia è andato a scuola in bicicletta sotto la neve. E poi il calcio, fine settimana importante, nervoso all'italiana, con un sacco di polemiche, quella tra Conte e Pioli di cui tra poco parleremo, con delle conferme, la Juventus ha le mani sullo scudetto, anche un weekend sotto questo cielo d'acciaio, di stelle, da Balotelli a Cassani a Francesco Totti, che ieri sera ha giocato una gara meravigliosa. 800 24 00 24, voglio parlare con voi. Buongiorno Suor Giovanna. Io seguo il Milan da quando avevo 5 anni. Sì. E sono milanista, prima la fede cattolica, poi quella milanista. Ci tenevo a superare, ma ormai ci stavo. Sono contento per la vittoria, penso è stata una bellissima serata che tutti volevamo. Va bene così, sono contento di aver superato Mordal e adesso il mio obiettivo è Piola. Piola, ma prima di tutto è l'Europa. L'Europa è quella che conta di più, perché la Roma non può giocare solo col campione italiano. Avevamo tanti punti di distacco dall'Inter. Adesso siamo a fare i punti, però loro hanno partito a meno. Però l'obiettivo principale, come ho detto prima, è entrare tra le prime sei, poi ci vediamo. Mostruosa la gara di Francesco Totti, 36 anni suonati, che adesso ha Piola nel mirino, ma al di là di questo, ieri sera ha giocato una delle sue partite, è stata una delle sue notti magiche, che lo conferma uno delle superstar del dopoguerra del calcio italiano. Che lo conferma un giocatore mostruoso anche ad anni 36. Ma ieri è stato anche il giorno in cui Balotelli una volta di più si è preso il Milan in mano. No, abbiamo vinto, abbiamo avuto questa partita col Barcellona, è andata come andata, abbiamo vinto 2-0, quindi ci ha ripreso. La domanda sorge spontanea: con Balotelli a Barcellona come sarebbe finita? Ma guarda, Io dico sempre che in una squadra forte ci sono tutti attaccanti forti e grandi campioni. Chiunque gioca non cambia niente. Magari andavamo a Barcellona e perdevamo 8-0, non c'entra niente. Giocavo io e perdevamo 8-0. Non c'entra chi ha giocato, abbiamo avuto sfortuna e basta. Quanto ha fatto il Napoli? Ha vinto alla fine. Li prenderemo volta prossima. Dobbiamo continuare a lavorare come gruppo. E secondo me, magari non abbiamo un gioco come quello del Barcellona, ma nel modo in cui giochiamo noi possiamo essere come Barcellona, l'abbiamo dimostrato. Perché qua in casa abbiamo vinto 2-0. Ragazzi, qui c'è qualcosa di strano e di diverso, perché a differenza del passato Balotelli sta diventando il leader del Milan, cosa che non è mai stata in vita sua, e non è questione di numero di gol, 7 in 6 partite che sono una media mostruosa, quando lui ne ha segnati massimo 9 nel nostro campionato, ma adesso è titolare fisso, il Milan si appoggia a lui e Balotelli sta davvero diventando leader di questa squadra, cosa che nemmeno Prandelli forse si sognava di avere. Attendevamo in questo weekend delle risposte dall'Inter che non sono arrivate causa maltempo, nonostante ieri sera si sia giocato su un campo da hockey Torino-Lazio con la vittoria dei Granata. Altra stella e altro fatto di questo weekend, mentre Prandelli dice filo sottile tra esultanze e poco rispetto, c'è stato Antonio Conte e quell'esultanza di Bologna che ha fatto molto discutere. Spesso e volentieri esulto, Ma il pubblico, io ho esultato col pubblico juventino girandomi verso la curva e anche da una parte della tribuna perché era pieno di juventini, quindi cioè se io non posso neanche esultare con i tifosi della Juventus, allora io lavoro duramente in settimana proprio per arrivare ad avere delle soddisfazioni. Allora, a un minuto alla fine sto 2-0, sto per vincere, non per vincere, però mettendo una base importante insieme a tutta la squadra per ricucirci addosso lo scudetto, adesso mi devo stare pure attento con chi esulto, dove esulto e con chi. Ma stiamo scherzando. Tocca a voi, 800 24 00 24. C'è chi scrive: ieri rigorone per il Milan, che schifo Guido, maglietta tirata, rigore concesso, non ci vedo niente di scandaloso. Certo, non era un rigorone, era un rigore normale. Io saluto e ringrazio, una giornata così strana e così piena di temi, Alberto Ceruti, prima penna della Gazzetta sul calcio. Ciao Alberto. Ciao Carlo, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Ben convocato. Volevo chiederti subito di Conte, visto che abbiamo sentito la sua voce. Secondo me è stato un pelo sopra le righe, un po' nell'esultanza, un po' nelle dichiarazioni, però io ti dico, per la Juventus, e forse non viene sottolineato abbastanza, non è facile essere presa a pietrate ogni volta che vai in uno stadio avversario. Sì, è successo a Napoli, dove hanno sfondato i vetri del pullman quando stava arrivando allo stadio. 50 Daspo juventini, nessuno del Napoli, questa altra cosa curiosa. Sì, ci sono stati brutti striscioni, brutti cori a Bologna, e bisogna parlare anche delle provocazioni, quindi non soltanto delle reazioni. Tu dici un pelo esagerato, appunto un pelo, non mi è sembrata una cosa pazzesca il comportamento di Conte, che ha esultato per una vittoria molto importante e ha esultato sotto la curva dei suoi tifosi. Quindi io penso che nell'amarezza di Pioli ci fosse anche l'amarezza per la sconfitta, ma sinceramente Conte poteva essere criticato, e io l'ho fatto quando si è scagliato contro gli arbitri quest'anno dopo la partita col Genoa, l'anno scorso ricordo a Parma, una sceneggiata pazzesca, ma in questo caso mi sembra che vada assolto almeno per insufficienza di prove. Allora, perché la gente mi scrive Conte si vergogni, o Maria Rosa da Bologna molto rammaricata per quello che è successo a Bologna, non ha avuto rispetto dei tifosi bolognesi, perché? Ma guarda, intanto è impossibile mettere tutti d'accordo, perché per la mia esperienza personale io ricevo le lettere, cura la rubrica tempi supplementari che certo. Esce martedì sulla Gazzetta, e gli interisti sono o tutti contro Stramaccioni o tutti a favore di Stramaccioni, a seconda di come tira il vento. Esatto, nel caso specifico Conte è l'emblema della Juventus, che è brutto dire odiata, diciamo non amata da tutto il resto dell'Italia non juventina. E quindi quando la Juventus vince, è successo ai tempi di Capello, è successo ai tempi di Lippi, l'allenatore, che è quello che con l'espressione che si usa oggi mette la faccia, è il simbolo, il bersaglio più facile. Sì. E quindi è normale che sia così. Mourinho non era amato in tutta Italia, lo amavano soltanto gli interisti. E quindi questa è la stessa cosa, Conte è amato soltanto dagli juventini, per reazione tutti gli altri sono contro. Se la Juventus non vincesse, Conte sicuramente sarebbe meno bersagliato, meno antipatico, però io credo che ai tifosi juventini vada benissimo così. Sì, a me va meno bene il fatto che comunque in un paese che dovrebbe essere civile, ma sappiamo bene quanto sportivamente non lo sia, il bersaglio diventi non Conte ma il pullman della Juventus, ripeto, ogni volta che si muove per andare in trasferta, perché queste sono cose che un po' passano sotto silenzio, ma secondo me sono gravissime. Ma questa è delinquenza reiterata, passare sotto silenzio sui giornali, esatto, nelle radio, perché non bisogna far passare per cose normali tutto ciò che è violenza che non provoca il morto, perché sembra che la violenza esista soltanto quando ci sono i morti. No, la violenza c'è spesso, troppe volte, e poi per fortuna non c'è il morto, ma è comunque violenza. Tornando a Conte, io vorrei sottolineare il comportamento di Montella, che anche quando ha perso non ha mai fatto polemiche. Questo e Montella credo che sia veramente un esempio quest'anno di fair play, un esempio per tutti i suoi colleghi, un allenatore giovane che sta facendo benissimo in campo e fuori, quando vince e quando perde. E quindi io applaudo con veramente Montella e vorrei che tanti lo prendessero ad esempio. L'ho fatto anch'io insieme alla Fiorentina tutta e anche ai suoi dirigenti, perché per molte giornate sono stati bersagliati dall'arbitro e non hanno fatto un plissé. Alberto, ti chiedo un attimo di pazienza per il traffico, poi chiudiamo la nostra chiacchierata e io aspetto gli ascoltatori. 800 24 00 24, convocati come sempre. Mister Ginta, finalmente dopo 2 anni di tribuna mi ha convocato, volevo ringraziarla. Tutti convocati. Terrio continua a ricevere un sacco di messaggi e di tweet. Conte ha l'arroganza insopportabile della sua squadra. Francesco su Twitter: Conte si spogli dai panni di tifoso giocatore e comincia a comportarsi in maniera rispettosa per il pubblico. Paolo su Twitter: bene, oggi non puoi parlare male dell'Inter perché non ha giocato. Questi alcuni dei messaggi mentre sto parlando con Alberto Cerruti, Gazzetta dello Sport. Alberto, il tempo non ha messo sotto sopra solo la Milano-Sanremo più stramba che si ricordi, ma ha anche provocato il rinvio di Sampdoria-Inter, che era per me la partita più attesa insieme alla risposta del Napoli, che è arrivata nel segno di Cavani, allontanando ombre di dame bianche, di mille polemiche sotterranee, eccetera. Anche su Sampdoria-Inter e alla luce di Torino-Lazio di ieri sera giocato su un campo da hockey, ovviamente mille polemiche. Sì, perché rimane il sospetto in questo nostro mondo che vive di dietrologia che l'Inter abbia in qualche modo favorito questo rinvio, visto che aveva giocato giovedì sera una partita con i supplementari contro il Tottenham. E poi francamente non c'è uniformità negli arbitri, ma non c'è nemmeno tra i prefetti, e questo sì, lo trovo più bizzarro, perché abbiamo visto ieri sera a Torino si è giocato come secondo me era giusto che si giocasse, un campo pieno di neve ma regolare, mentre a Genova già da ieri mattina era stato deciso che non si sarebbe giocato. Quindi un rinvio, come dicevi giustamente tu, era la partita più attesa insieme con quella del Napoli. Alla fine non so se l'Inter ci abbia guadagnato, sicuramente non ha perso, però adesso deve rincorrere e quindi questa partita contro la Sampdoria diventerà un ostacolo ancora più alto. Certo. Perché se non vincesse contro la Sampdoria si allontanerebbe ulteriormente il sogno o l'utopia terzo posto. Beh, almeno con le gambe un po' più fresche, perché sennò sarebbero state fuori magari degli alibi sui 120 minuti di Coppa. Alberto, per chiudere, stelle, Cavani che porta il Napoli fuori dal buco in cui si era ficcato contro l'Atalanta, Totti che gioca una partita da superstar e Balotelli che, attenzione, sta diventando secondo me negli atteggiamenti, nel modo di giocare, anche nei comportamenti, il leader del Milan, una dimensione incredibile per uno come Balotelli. Ma Balotelli si sta comportando bene, però noi siamo sempre un po' frettolosi nei giudizi, aspettiamo la fine di questo campionato e soprattutto giudichiamolo l'anno prossimo, quando sarà finito l'effetto novità, quando sarà finita questa luna di miele. Credo che i campioni in generale vadano giudicati nel tempo, e in questo senso un applauso infinito a Totti, che sta dimostrando non soltanto di essere un fuoriclasse ma di essere un professionista straordinario, perché per fare quello che ha fatto lui ieri sera vuol dire che si allena, si sacrifica, e alla sua età non succede a tanti. No, e alla fine significa anche che con Zeman la Roma non ha sbagliato strada, tutto sommato. Beh, Andrea Zoli sembrava di passaggio e forse non lo sarà. Mi sembra che al di là dei risultati abbia portato buon senso, serenità nello spogliatoio, ha fatto delle cose semplici, ha aggiustato la Roma e quindi sta facendo bene, perché ci sono i risultati ma c'è proprio un'atmosfera diversa nella squadra. Grazie Alberto, buon lavoro. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie Alberto Cerruti. Bastonate sul pullman, sì, qualche pietra, sputi, qua, sì, all'antistadio. Allora io dico, se succede a Bologna, che è una città non civile, civilissima, allora io dico, è finita, perché, cioè, me lo posso aspettare, vabbè, è successo quello che è successo a Napoli, che mancava l'assedio di guerra con lacrimogeni e cose, ma se io mi devo aspettare che anche a Bologna, una città civile, veniamo accolti in questa maniera, allora io dico, boh, cioè, allora veramente c'è la voglia di andare fuori, di andare fuori all'estero, perché magari uno sta più sereno, la vivi anche in maniera più tranquilla, più serena. Non ha torto Conte, non ha torto Antonio Conte, in questo senso non esiste, non esiste che la Juventus, al di là del tifo che può avere contro, ma deve essere un tifo sportivo, non esiste che la Juventus venga presa a sassate a Napoli, così come a Bologna, così come in qualunque altro stadio in cui vada. Curioso, ripeto, che a Napoli ci siano 50 o giù di lì d'aspo di tifosi juventini, nessuno per il Napoli. A Bologna vedremo. 800 24 00 24, fuori la voce, convocati. Eugenio da Bologna. Pronto? Pronto, mi dica. Allora, io sabato sera c'ero allo stadio, no? Devo dire che anche Diamanti, un minuto prima di Conte, ha incitato, come normale che sia, la sua curva, che erano anche molti tifosi juventini sui distinti verso la curva, ma nessuno si è offeso. Questa è una cosa. Poi anche il signor Pioli, che è una persona equilibrata, dovrebbe dire anche, ci vuole rispetto, che io ho 64 anni con un nipote di 8 anni, dove io sono di Monza, tipo per il Monza, penso un po'. Bologna è una città che mi trovo bene, civilissima, ma lo stadio cambia qualcosa. E le ripeto, siamo stati spintonati, io e un bambino di 8 anni, perché aveva la sciarpa della Juventus, anche da persone della mia età. È una cosa incredibile. L'ultima cosa che devo dire, per entrare ci sono dei problemi dossier porti con l'ingresso dello stadio, per tutto il settore dei distinti è entrato da una porta sola, dopo tre quarti d'ora di coda abbiamo fatto tre passi. A 20 minuti, piovendo giù di prima della partita, sono stati aperti i tornelli, sono entrati tutti senza nessun controllo, niente. Sì, ma sì, porcheria all'italiana, ma Eugenio, ma sono storie tristissime, ma che non mi sorprendono. Io infatti poi magari arrivano qui e mi fanno causa in mille, però in 10.000 o tutte le società di A, B, C, D, tutte quelle che ci sono, ma io sconsiglio sempre andare allo stadio. Ma in Italia è un porcaio, cioè non esiste, tra schedature, tra tornelli, tra misure di sicurezza, tra spintoni ai bambini, ma non esiste. Ma come si fa ad andare allo stadio in Italia? Ma io me lo domando ogni domenica, ma non tanto per la violenza, perché avendo frequentato gli stadi italiani alla fine degli anni 70, negli anni 80, vi posso dire che il clima era insopportabilmente teso. Però oggi andare allo stadio è costosissimo, è un lavoro, gli stadi fanno schifo, ci sono i tornelli, bisogna essere scredati come criminali. Dunque mi domando, al di là della bellezza del gioco, al di là del fatto che il calcio andrebbe visto allo stadio per capirlo e per amarlo in maniera profonda, ecco, mi domando come si possa andare. Edoardo, provincia di Rovigo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io sono interista, e però in questo caso volevo spezzare una lancia a favore di Conte. A Bologna sono stato anch'io varie volte allo stadio, e anche è vero quello che diceva l'ascoltatore di prima, c'è un clima da guerra. Anch'io con la sciarpa dell'Inter me l'hanno fatta mettere via i poliziotti. Poi più costano i biglietti, più si va in tribuna poltronissime, poltrone d'oro, non so come si chiamano, più la gente è cattiva, aggressiva, insulta. Sì, Edoardo, però non criminalizza, cioè Bologna mi sembra un esempio normale di ciò che succede negli altri stadi italiani. Sì. No? Sì, cioè, ecco, non stiamo a demonizzare Bologna, che non è una città, come diceva prima lo stesso Conte, estremamente civile. Quando gioca la Juventus sbroccano, ma sbroccano da ogni parte d'Italia, e questo è inaccettabile, no? Non trova? Cioè, non mi sembra che Bologna sia una piazza particolarmente incandescente in maniera normale, anzi, ecco. A parte questo, volevo ricordare che uno dei più bei ricordi da intrisa che ho avuto è stato quando Mourinho, dopo aver vinto a Barcellona, è andato a festeggiare addirittura sotto la furia del Barcellona, e nessuno ha parlato di insulto, di cose gravi, cioè fa parte del gioco un po' queste esultanze, così non fai neanche a polemizzare, cioè Pioli ha sbagliato, ha perso e... era molto nervoso, sì, sono abbastanza d'accordo. Pioli è una persona estremamente equilibrata, che molto non è un polemista, molto difficilmente perde la testa, chiaramente ci teneva a fare, ma l'ha detto anche a questi microfoni, un regalo grande al Bologna, a Bologna, alla sua tifoseria, in un momento straordinario della sua squadra, e se l'è presa male. Ripeto, io non ho visto niente di peccaminoso nell'esultanza di Conte. Le sue parole dopo la partita forse sono state un pelo eccessive. Giuseppe, provincia di Roma. Allora, buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Io grazie. Sono un tifoso juventino, volevo dire che sono abbonato allo Juventus Stadium. Sicuramente da quando la Juventus è diventata, ha aperto questo grande scenario che è lo stadium, tante porcherie non si vedono più neppure a Torino. Questo cosa vuol dire secondo me? Vuol dire innanzitutto che vi occorre sensibilizzare le società, lavorare molto di più con le società, permettergli di fare degli stadi di proprietà, perché tutti coloro che lanciano poi i sassi e le bastonate addosso ai pullman della Juve oggi, dell'Inter, io ho visto a Torino lanciare di tutto al pullman dell'Inter pure quando si giocava allo Stadio Olimpico, le ho viste veramente di tutti i colori, per cui di questo noi non dobbiamo meravigliarci. No, ci dobbiamo meravigliare invece tutte le volte. Io cioè, non lo so, non sono Alice nel paese delle meraviglie, ho una certa età, sono anche insomma discretamente cinico, però io mi permetta di meravigliarmi e di avere schifo ogni volta che succeda, ogni volta che succede, e quindi di sottolinearlo con tutto lo schifo che provo. Quindi io mi meraviglio e voglio meravigliarmi ogni santa maledetta domenica di queste cose. Voglio continuare a meravigliarmi il giorno in cui non mi meraviglierò più di Molotov, di sassate, di uova, di bastonate contro i pullman, giuro che farò un altro mestiere, aprirò un bar su una spiaggia e così mi leverò dalle palle per la gioia di molti ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde, dopo la borsa vi aspetto qui. Qua fra me e lui non sono sicuramente io. Se uno che è squalificato per omessa denuncia viene a parlare di moralità a me, significa che è finito il mondo. Tutti convocati. 800 24 00 24, sempre Franco Piantanida, autore di questo programma, capitan Fabio Cantadore in regia, e io vi aspetto mentre Fabio si apre un bar sulla spiaggia, faccia almeno sapere dove, che veniamo a fare l'aperitivo a parlare di sport con il barista, ve lo farò sapere quanto prima. Io non accetto, cara signora Marina, le voglio bene, mi scrive sempre, però non accetto che lei in questo caso mi scriva un messaggio. È il caso di fare a meno di trasmissioni con incitamento tifoso anche da parte dei giornalisti? Ditemi voi dove ho fatto incitamento tifoso. Ditemelo voi. Io faccio, io stigmatizzo i comportamenti di quelli che prendono a bastonate, a sassate i pullman degli avversari. Se questo è incitamento tifoso, allora io faccio incitamento tifoso. Adesso però la top 3 delle dichiarazioni della domenica. Partiamo da Roma, dove in settimana abbiamo visto levarsi una fumata bianca, e allora lo speaker della Roma ha preso la palla al balzo invertendo l'ordine dei fattori. Sentite come. Francesco, nome abbastanza popolare in questi giorni a Roma, non il solito Francesco e il pubblico che urla Totti, ma al contrario, mi è sembrata carina. Iniziata la Formula 1, Sky trasmette, come sappiamo, i Gran Premi in diretta, in esclusiva, con poi differita Rai, anche qui ne abbiamo una bella. A Conte, dopo la partita dopo una partita discretamente calda è stato chiesto di Formula 1. Sentiamo cosa ha risposto. Tra l'altro Conte, che fuori onda ci diceva che non vede l'ora che parta la Formula 1 perché è un grandissimo appassionato. Ci state massacrando con la Formula 1, quindi non vedo l'ora che parta. Ci state massacrando con la Formula 1, non vedo l'ora che parta. Allora, a proposito di Formula 1, come sapete, questo contratto è abbastanza bizzarro, cioè Sky ha 9 Gran Premi in esclusiva che vengono trasmessi con 3 ore almeno di differita da parte della Rai. Allora, al TG1, prima del Gran Premio, hanno avuto una trovata geniale, che è questa. Formula 1 in Australia vince Raikkonen su Lotus, bene le Ferrari, Alonso secondo, Massa quarto, solo terzo il campione del mondo Vettel. Telecronaca della corsa dalle 14 su Rai 1, subito dopo il telegiornale. Patos, arrivederci, ma come? Ma diciamo il risultato prima? Ma no, no, io non ci posso credere. Cioè, diciamo il risultato prima, magari c'erano quelli che erano lì, adesso mi guardo 4 notizie e poi la corsa che è stata stamattina, ho fatto tardi e voglio sapere, voglio vedere come se fossi in diretta come va. Ma no, al risultato prima. 800 24 00 24, numero verde. Poi voglio parlarvi anche, o farvi sentire comunque le voci anche di molto altro, di tutto ciò che è successo in questo weekend, in cui una maledetta neve fuori stagione ci ha costretti a stare in casa tutto il fine settimana a guardare la televisione. Per fortuna c'era un sacco di sport. Franco, provincia di Chieti. Pronto? Pronto, dica. Buongiorno, due cose. La prima, io sono un tifoso del Milan. Sì. E Mourinho l'ho sempre amato, dai tempi del Porto, del Chelsea, anche quando stava con l'Inter. Sì. Quindi il fatto che soltanto gli interisti volevano bene a Mourinho non è proprio vero, mentre Capello, Conte e quant'altri non li amano perché sono arroganti e presuntuosi anche quando perdono. Guardi Franco, non hanno uno che è tifoso del Milan che ama ancora Mourinho anche guardi, di Mourinho ce n'è uno e nessuno ha il suo carisma e la sua intelligenza, quindi questo non mi sorprende. Io la penso un po' alla sua maniera. Io adoro i personaggi come Mourinho, ma perché abbinano il senso della provocazione comunque ad un'intelligenza che è fuori dal comune. Poi sappiamo bene come questi personaggi un po' borderline siano come l'aglio o la cipolla, o ti piace o la detesti, quindi ciò non mi sorprende. Certamente Conte è uno che vive le cose con grande passione, non ha né il carisma né il senso della dialettica come aveva Mourinho. Fabio Palermo, buongiorno. Buongiorno. Intanto grazie per avermi richiamato. Volevo soltanto aggiungere qualche cosa a questa polemica che mi pare assurda e sterile sull'esultanza di Conte. Ho l'impressione che qualunque cosa faccia la Juventus diventa, per chi la critica, un punto di vantaggio rispetto agli altri. Cioè, è come se cercassero sempre di avere un beneficio dal fatto di poter criticare tutto quello che succede nella Juventus o per la Juventus. È una bruttissima impressione, in quanto sento commenti e cose che francamente mi lasciano un po' perplesso. Anche l'ascoltatore di un attimo fa che diceva che si tratta di allenatori arroganti, parlando di Capello e di Conte. Io credo che non sia arroganza, ma che sia una maniera di esprimere il proprio carattere, anche di chiudersi in una specie di fortezza, e in questo sbagliano assolutamente, convinti di essere attaccati un po' da tutto e da tutti. Beh, ma di fatto sono attaccati un po' da tutto e da tutti, quantomeno nei fatti, no? Perché ripeto quello che dicevo prima, io trovo inaccettabile che comunque il convoglio della Juventus venga sistematicamente, almeno nelle ultime domeniche, preso d'assalto dai tifosi. Poi bisognerebbe anche magari avere un po' più di lucidità e di freddezza nel non raccogliere queste polemiche, però capisco anche che sia molto complicato, quindi poi le dichiarazioni che ne seguono sono quelle che sentiamo. Andrea, Bologna, buongiorno. diciamo, no, ma Bologna è la Medellin del calcio italiano, visto quello che si è sentito di ieri dal Milan di Stein. La Medellin, non l'ho detto io, eh? No, ma infatti, non c'ho mica con te. Hanno lanciato delle uova al Puma della Juve, non si fa, ma hanno lanciato il calcio Spagna, non è vero. Conte meglio che probabilmente Parrucchino. Non è vero? No, calcio Spagna no, solo uova, le due manate. Beh. Però, a parte quello, cioè, che Juventus e Bologna faccia le vergini dopo quello che hanno fatto, dopo che decine e centinaia di persone vanno per lo stadio dal 2005, perché facciamo finta di non ricordarci l'arbitraggio di Pieri nel 2005, o quello in Serie B l'anno dopo con Zalaieta, o lo tuffo di Zambrotta, cioè te li vogliamo ricordare tutti, non abbiamo tempo, ci vanno no, no, no, so, ma tutti hanno, Andrea, tutti hanno conti in sospeso con la Juventus, tutti hanno magari conti in sospeso con la Juventus, però questo non giustifica non giustifica gli atteggiamenti, le sprangate non ci sono state, le uova sì, in un paese normale una squadra deve arrivare allo stadio in condizioni normali. Questo vale per il Bologna a Torino, dovrebbe valere per la Juventus a Bologna, dovrebbe valere per la Juventus a Napoli, dovrebbe valere per tutti quanti. Quindi, perché se stiamo a guardare tutti gli episodi del passato, tutti hanno conti in sospeso con tutti, tant'è vero che Genoa-Milan da un'eternità, per fortuna adesso non più, si gioca senza tifosi, in un'atmosfera blindata. E tutte queste sono cose che a me provocano il volta stomaco. Se continuiamo a guardarci indietro, andremo avanti così, a tirare nella migliore delle ipotesi le uova, nella peggiore le molotov. Adesso non esageriamo, non sembra. Posso dire un'altra cosa? Cioè, sì, Andrea, paio, certo. Al Reggio di Parma? Sì. I tenori prendono le uova, dallo Girone i tenori a teatro prendono le uova e i pomodori quando cantano male. Aspetta, sì. E chiuso parentesi. Dunque, c'è stato un solo caso in tutta Italia, nel campionato italiano, dove una squadra ha preso e andata via. Bologna in due anni 50 ha creato il governo dato e chissà come ci sono sempre due in mezzo. Non so perché, non so per come, sarà un caso. Una cosa un po' più importante di questa, Buffa rimane scaio. Come? Buffa rimane a Sky l'anno prossimo, questo è più importante. Chi rimane Sky, Buffa? La sento male, non lo so, proverò a chiederglielo. Io ho notizie contraddittorie anche sul fatto che Sky tenga i diritti dell'NBA, ma questo è un altro discorso, quindi, ma proveremo a chiederlo a Federico Buffa, che è nostro amico, e quindi le faccio sapere. Ci fermiamo per il traffico. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto qui. Tutti quanti dobbiamo scusarci questi che ci hanno purtroppo guardato in televisione, perché questa sera meritiamo solo bastonate. Tutti convocati. Allora, per fortuna questa settimana con il calcio, che il prossimo weekend si ferma per la partita della nazionale con il Brasile, avremo modo di approfondire tutti gli argomenti che riguardano e il calcio e gli altri sport. Caro Tom da Bergamo, nel caso di usare il turpiloquio, gli sms li leggo, ma sono davvero tantissimi, quindi qualcuno mi sfugge. E Tom scrive: ma ci ricordiamo dello striscione offensivo super sotto proprio a Bologna l'anno scorso? Che ipocrisia questo calcio, ma vaffan. Va bene, lo ricordiamo lo striscione offensivo super sotto, ne ricordiamo in tutti gli stadi italiani, non solo a Bologna, che non è, ripeto, che non è certamente un caso isolato, nemmeno il peggiore. Adesso però voglio darvi riflessi e così suggestioni di altri sport, a partire dalla vittoria dell'Italia sull'Irlanda sabato nell'ultima delle Sei Nazioni, e da Lo Cicero che ha salutato la compagnia azzurra. Adesso bisogna soltanto gioire e basta, e godersi questo fine carriera. Senti, che pomeriggio è stato quello di Andrea Lo Cicero? Non è che un pomeriggio, è una settimana particolare, intensa, perché comunque hai paura di sbagliare, hai paura di trovarti nella situazione negativa dove non riesci a fare quello che l'allenatore ti chiede. e invece oggi c'è stata fortuna da parte mia, ho preparato bene questa partita e c'è anche la vittoria. Quindi quanto vale questo successo per l'Italia del rugby, Andrea? Vale la risposta a tutti quelli che non capiscono nulla del passato. E per te? Per me vale tanto, perché vuol dire che ho seminato bene, e ho fatto bene per questa nazionale e spero di continuare a fare ancora meglio. Questo è lo Cicero con Dario Ricci. Dunque, Gran Premio d'Australia, dicevo, Alonso manda una prima cartolina incoraggiante agli italiani con la posta del mattino, una seconda posizione dietro Raikkonen, che è un raggio di sole. Alonso e poi Massa. In qualsiasi punto di questo weekend potevi finire sul muro, potevi finire con un problema meccanico, c'erano tante cose che dovevi mettere a posto, li abbiamo messo tutte a posto, abbiamo salvato un weekend in seconda posizione davanti alla Red Bull, che sicuramente ha il sapore di una vittoria. Abbiamo perso un pochettino la direzione nella seconda sosta, sembrava un po' troppo presto quando Fernando si è fermato per durare tutta la gara così, e abbiamo deciso di continuare un po'. E lì è stato dove ho perso due posizioni, cioè senza quello problema sicuramente eravamo lì a lottare fino alla fine, però devo dire che la prima gara tutto sommato è stato un inizio di campionato positivo. Alonso e Massa dunque secondo e quarto, e aspettiamo il prossimo giro di pista di questo campionato di Formula 1. Adesso però la Milano-Sanremo, corsa di domenica come non accadeva da tantissimo tempo, guarda caso sabato c'era il sole, ieri la tormenta, vince il tedesco Čolek. We had horrible conditions in the beginning and it was snowing before the Tokyo. When I stepped on the bus after this 110 kilometers, I was almost crying because my hands were so frozen. And yeah, but in the end of the day, I think it's a great success for me and my team. Veniva da piangere a 10 km dalla fine, povero Čolek, che però ha regolato Sagan ieri, veramente condizioni impossibili per correre in bicicletta, anche per giocare a calcio, ma insomma, a Torino si è giocato, a Genova no, polemiche incluse. Dunque sentiamo anche un altro grande momento di sport di ieri, perché c'era il confronto diretto al vertice del campionato di basket, Sassari-Varese, con Sassari che la spunta all'ultimo tiro. Allora l'allenatore dei sardi, Meo Sacchetti. Un quarto quarto di molta intensità e di molta grinta, magari non bellissimo, però veramente ci fa sperare che si riusciamo a tenere questa cosa qua, questa nostra intensità per più tempo, possiamo crescere ancora. Randelli intanto sta dicendo in conferenza stampa: se, attenzione, se Totti l'anno prossimo manterrà questa condizione lo prenderemo in considerazione, sembra un giovincello, l'anno prossimo ci sono i mondiali, mi sembra un po' difficile crederlo, però l'ha detto Cesare Prandelli. Io sono d'accordo con chi mi scrive: mi sembra assurdo giustificare anche il galateo del semplice tra virgolette lancio di uova perché le tirano ai tenori. Anche a me, se mi tirano un uovo mi incazzo di brutto, quindi non lo trovo giustificabile né il lancio di uova né tantomeno le sprangate, le bastonate che ci siano state. Poi va a sapere chi ha ragione, le pietre, dall'uovo al sasso, alla bastonata, mi sembrano tutti gesti di inciviltà, no? Fabio, fermo, buongiorno. Buongiorno, salve. Dica. Volevo un po' parlare della conferenza stampa di Conte. Sì. La dialettica lascia un po' a desiderare, ha parlato molto vittimismo, trovato, da una persona che comunque sia un personaggio pubblico, vinto una partita in trasferta, quell'esultanza proprio condannabile sotto ogni punto di vista. Perché? Si lamenta della violenza, del vandalismo, che erano 4 persone, 10, 15, quante che ne vogliamo. Che c'entra esultare in campo dopo una vittoria che dà lo scudetto alla Juventus? No, chi c'è esultare in tutto lo stadio, girandosi verso tutto lo stadio, quindi verso i bolognesi. Sì, perché lì è entrato anche la folla, c'è l'atto abuso dell'atto vandalico. No, vabbè, Pullman. L'atto vandalico Pullman, cioè alla fine uno viene preso a sassate ogni volta che va allo stadio. Mi sembra che l'esultanza di Conte sia stata un po' eccessiva. Forse sono state un po' sopra le righe anche le sue parole dopo, perché invece di di spegnere questo piccolo fuoco lo ha alimentato, però io trovo giusto quello che ha detto: se non posso esultare dopo che vinco in trasferta una partita dura e mi avvicino allo scudetto, ma ditemi voi perché. Ma ditemi voi perché, non mi sembra benzina buttata sul fuoco, mi sembra invece un ambiente incapace di accettare l'esultanza altrui, di accettare la gioia altrui. Questo sì, non trovo nulla di male nel fatto che Conte abbia esultato dopo la vittoria della sua Juventus, magari, ripeto, in maniera un po' eccessiva, però non, in questo sinceramente non ci trovo nulla di male, non riesco. Diego, provincia di Lecce, buongiorno. Buongiorno, grazie per essere stato convocato. Sempre. Io sono un tifoso milanista. Vorrei sapere se in queste condizioni dei passi falsi della Juve posso portare il Milan a credere fino in fondo a questo scudetto. Troppo tardi. Le basta come risposta? Troppo tardi. Troppo tardi, le basta. Mi sembra che le basti come risposta. Troppo tardi, perché la Juventus a 11 punti di vantaggio sul Milan non mi sembrano recuperabili a 9 giornate dalla fine. Io credo che la grande battaglia, molto interessante, sarà per il secondo e terzo posto, che fa tutta la differenza del mondo. Milan secondo, Napoli terzo, o Napoli terzo, Milan secondo, questo lo scopriremo. E questo è, per quanto riguarda le prime posizioni, il grande tema che ci lascia questa stagione. Devo salutare? E allora saluto, tanto vi do appuntamento a domani, tutti convocati dalle 14 alle 15. Franco Piantanini, autore di questo programma, capitano Fabio Cantadone in regia, ciao a tutti.